Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. À toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie, nous le jurons tous, tu vivras. Caro Oscar, l'inno del Belgio, eh? Sì, ne stiamo mandando in onda, diciamo, una versione un po', diciamo, musicata alla balera, che lo fa sembrare addirittura meno marziale del nostro Fratello d'Italia, ce ne vuole. Insomma, la realtà è che una versione ufficiale è più marziale, però forse è meglio questa, dai. Almeno è una versione che serve a ricordare le vittime. Belgio colpito. Poi Europa, sai, noi colpito. Che facciamo i marziali, gli europei che fanno i marziali, farebbe un po' ridere oramai, come si vede dai dibattiti sgangherati che ognuno di questi episodi. Ma anche te ha colpito questo. Mamma mia, cioè. Vabbè, lasciamo stare ieri il Gasparri Luca Telese, non so se l'hai visto, sì, un sì. Minuto e mezzo di rissa su quanti sono i musulmani in Europa, non sai niente, meschino, difendi i terroristi, cioè, vabbè. Ma poi quello che mi ha colpito, devo dire, da ieri, da metà mattinata di ieri fino a stanotte tardi, mi ha colpito la quantità di toni fuori luogo, ma di tutti i tipi, quindi non mi ergo a giudice, per carità, insomma, però i toni che c'erano sui social italiani, per quel po' che ho visto, paragonandoli un po' a quelli britannici o quelli francesi, è impressionante come l'opinione pubblica italiana ormai in questi ultimi anni abbia assunto dei toni di invettiva, di disprezzo, di condanna immediata, mischiando cose che poi c'entrano un po' con niente. Cosa c'entra con l'ISIS, gli attentati, le vittime, prendersela con i tedeschi, i francesi, l'euro, non lo so. Io veramente ieri ho passato una giornata a grattarmi la testa. Sì. Beh, l'80% dei social sono fogna, però, questo va detto. Ma mia, non raggio questo, però mi ha colpito vedere come se non ci fosse più nessuna vera cosa che ci accomuna, ecco, per molti, non generalizzo, ma soprattutto la quantità di osservazioni a sproposito, perché, ripeto, non stiamo parlando del rispetto delle regole del patto di flessibilità europeo, stiamo parlando di un'altra cosa. Perché c'è qualcuno che è arrivato a dire, arrivato a quello, dagli attentati. L'Europa franco-tedesca, di qua, ma ce ne fosse un'Europa franco-tedesca. La verità è che qui, da quando è cominciata la strage in Europa jihadista, cioè dal 2004, sono 420 vittime, ogni volta noi ci ripetiamo le stesse cose e tragicamente ne facciamo un centesimo. Cioè, ricordati quanto gli impegni presi per esempio per il coordinamento dell'intelligence dei paesi europei dopo il Bataclan a novembre, non è successo assolutamente nulla. Ma tutti raccontano, per esempio, che in Belgio ci sono le polizie che manco si parlano perché hanno diverse estrazioni culturali, tra le locali, i fiamminghi, i valloni, quella federale, quelle. Quindi, questo è un problema. Dico io, non è il primo problema. Ma che effetto ti ha fatto vedere Federica Mogherini piangere? Era ad Amman, tra l'altro, in Giordania. Io sostengo che in quella posizione, lo so che è umano, in quella posizione, faccio un paragone col caso Fornero che non c'entra niente, altra situazione, ma quando prendi una decisione bisognerebbe avere la forza, non so come di evitare, insomma, di dare questa immagine pubblica. Sì, e qui non c'entra niente genere, per così dire, non c'entra niente. Anche Obama, l'uomo pianto, o la donna, e c'entra il fatto che sì, devo dire che di fronte a un attacco di questa violenza terroristica, le lacrime da chi deve incarnare, cioè ci deve essere, come devo dire, una compunta fermissima dignità a evitare la lacrima. Questo lo so. Certo, se ti scappano poi è tragico. Eh sì, anche perché lei oggi ne scrive su Repubblica, sì, dire è umano, sì, sì, ma giustifica. Oggi sono lì a lavorare. Però effettivamente ha ammesso anche lei implicitamente nel testo che ha mandato su Repubblica che sarebbe stato meglio evitare, cioè che gli è sfuggito il controllo. Ti dirò che poi ieri la giornata era paradossale, se ci pensi. Obama, benissimo levare le sanzioni a Cuba, era una cosa antistorica, ma il discorso che ha fatto di fronte alla televisione cubana, reti unificate come sarebbe in Italia, a me ha colpito perché strideva paradossalmente con i morti provocati dall'ISIS in Europa, perché lui ha detto testualmente, in un paese in cui gli hanno ancora arrestato i dissidenti per non fargliele incontrare, che gli ideali della rivoluzione castrista trovano compimento nella democrazia e nella libertà. Allora a me ha colpito molto nel giorno degli attentati che un presidente americano dica che gli ideali di una rivoluzione comunista castrista che continua a arrestare gli oppositori trovano compimento nella democrazia e nella libertà. No, le rivoluzioni comuniste castriste negano radicalmente. Peraltro dopo li ha anche incontrati 13 di loro in ambasciata. Scelti dai castristi, però ovviamente. Però vabbè, comunque per dirti che il mondo è un paradosso, è un mondo, paradosso. Se ci colpiscono è perché siamo deboli. Ecco, questo... E invece no, stiamo parlando di 31 morti. Nel cuore dell'Europa, a Bruxelles, l'ISIS che rivendica e colpisce, per quel che riguarda la cronaca ci sarebbe un sospetto in fuga, perché ci sarebbe la foto di questi due che sarebbero i kamikaze dell'aeroporto e un complice. Stiamo parlando e si parla anche sui giornali delle falle presunte o vere del Belgio, dell'intelligence belga, delle polizie belga. Ne vogliamo discutere con i primi ospiti, dicendo che i microfoni sono aperti 800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta, noi siamo qui, cari ascoltatori. Se volete dirci quello che volete, anche il rapporto con l'Islam, caro Oscar, anche questo certo, è un tema, è inevitabilmente, un tema inevitabilmente da toccare. Ne parliamo con un eurodeputato belga, di origine italiana, tanto che parla un ottimo italiano, Marc Tarabella. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno. Salutiamo anche Jean-Pierre Darny, che è responsabile di ricerca all'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Darny e benvenuto. Buongiorno. Allora Tarabella, lei che è belga lo sa, ovviamente oltre al cordoglio tutto il mondo si stringe alle vittime di questo attacco terroristico, però da giorni insomma si parla di una presunta inefficienza dell'intelligence della polizia belga. Lei che risponde? Risponde che è una bugia, perché il terrorismo, siamo tutti nei confronti del terrorismo. Parigi il 13 novembre, poi Istanbul, Ankara, adesso c'era prima Madrid, Londra. Se l'aspettavamo, dobbiamo dire questo, che dal 13 novembre le forze di sicurezza sono molto presenti su tutte le città, soprattutto Bruxelles. Nei posti dove ci sono tanta gente, e anche l'esercito, perché nella tradizione belga l'esercito non è mai nelle strade e dunque da alcuni mesi siamo abituati a avere l'esercito. E queste critiche vengono soprattutto dalla Francia. Io mi ricordo che nella Francia hanno messo 4 anni per arrestare l'assassino del prefetto Erignac in Corsica. Naturalmente la Corsica non è la Francia metropolitana, però e chiaramente queste critiche non possiamo ammettere, perché hanno fatto quel che hanno potuto. Temevamo quel che è successo 2 giorni fa, che è successo ieri, il 22 marzo. Sì. Penso che abbiamo fatto tutto. Io quando si parla a livello europeo del PNR, Passenger Name Record, sì, è una cosa molto interessante, ma sarebbe meglio che i paesi scambiano le date che raccoltano. Ma è vero per esempio che in Belgio non si parlano le polizie fiamminghe, vallone? No, collaborano a Bruxelles, parlano le due lingue. E dunque abbiamo una polizia federale a livello nazionale e poi polizie locali nelle zone, nelle comuni. E dunque questa è stata una riforma fatta nel 2001 per più di efficienza. Hanno arrestato e controllato, è fatto perquisizione dall'attentato di Parigi, c'era un problema a Verviers vicino Liegi, hanno arrestato alcune persone, fatto perquisizione, trovare bombe. Dunque arrestato alcune persone. Quindi ma terrorismo... hanno fatto il possibile. Sì, penso di sì, chiaramente. Però critiche venendo dalla Francia non posso ammettere, perché la Francia hanno controllato Salah Abdeslam 3 volte Dopo gli attentati del 13 l'hanno lasciato partire. Questo è vero, questo è un dato di fatto, cioè Abdeslam fuggito da Parigi è stato fermato su una macchina, sì. Evidentemente non si sapeva chi fosse, perché no, Oscar? Non hanno scambiato le date, aveva già un segnale negativo, sì, nel Belgio. E no, ma è chiaro, Tarabella, posso umilissimamente farle osservare, però, che il problema non è tanto. Cioè, c'è un elemento che mi preoccupa, e anche proprio il tono che lei usa nei confronti della Francia. Sono i francesi a criticarci, quindi è inaccettabile. Noi, come umili giornalisti che vedono cosa ci pensano i nostri ascoltatori, vorremmo che la gente sapesse che cooperano tutti al massimo, francesi e belgi, polizie locali belghe con quella federale, italiani e tedeschi. Mentre invece abbiamo ascoltatori che magari sono andati a Bruxelles, perché Bruxelles è uno dei posti in cui o per lavoro o per cultura o per turismo o per le istituzioni europee moltissimi vanno, e dicono: beh, cosa dobbiamo dire? Uno che abbia idea, Molenbeek, dove si è concentrato per mesi la rete che Salah Abdeslam ha dato, non solo ricetto, ma sono i suoi e la rete logistica sua, quella per Parigi, che lì ha ancora, alimenta i sospetti che hanno attuato molto probabilmente l'attentato di ieri. Insomma, per chi conosce la realtà urbana della concentrazione vicino a Bruxelles, dice: Molenbeek non è che sia Los Angeles, quindi l'idea che per mesi non si trova nessuno non è una gran prova di efficienza, quindi che qualcosa non funzioni ci sarà o no? Ma io penso che hanno fatto tutto il loro possibile, è riconosciuto da tutti, ma Molenbeek 85.000 persone, naturalmente non è Los Angeles, chiaro, però non possiamo, hanno informazione, e quando hanno informazione molto precise vanno dalla gente per tentare di arrestare, controllare negli appartamenti, hanno fatto più di 100 perquisizioni dopo gli attentati di Parigi. Sì. Quindi la sua posizione è chiara, cioè dire: il Belgio respinge le accuse. Vogliamo sentire Jean-Pierre Darny, che è esperto di politica francese, oltre ad essere francese, è politica estera italiana. Insomma, Darny, Marc Tarabella, eurodeputato belga, ci dice che in realtà respinge al mittente le accuse. Adesso forse siamo partiti in maniera, insomma, sarebbe bella la collaborazione appunto tra tutti, no? Non è che vogliamo mettere una polemica, puntare il dito contro qualcuno, però Darny, come stanno le cose? Io condivido le considerazioni che sono state appena fatte. Allora, è chiarissimo che ci troviamo di fronte a un problema di terrorismo e di criminalità in un contesto urbano, un contesto particolare dove c'è una rete di sostengo. Questo deve accendere una lampadina intelligente negli amici italiani, la lampadina del passato, del terrorismo eversivo degli anni 70-80, ma anche della criminalità organizzata, dove in alcuni contesti urbani italiani esistono queste protezioni e degli individui che si nascondono. Quindi, una volta detto questo, è ovvio che nel contesto attuale, come vengono definite le azioni attuali, le polizie fanno il massimo, e lo fanno sicuramente nel Belgio, lo fanno in Francia, lo fanno in Italia. Una volta detto questo, dopodiché, allora, è ovvio che non possiamo vivere in un mondo dove prevediamo qualsiasi azione malefica e la possiamo contrastare. Cioè, ci sono gli autori di fantascienza che pensano che si può controllare tutto, non è così. Secondo elemento, fra Francia e Belgio c'è una rete estesissima di foreign fighters, o comunque di persone nazionali, probabilmente o nella maggior parte dei casi discendente di immigrati, quindi seconda generazione di immigrazione, che per tutta una serie di motivi hanno preso questa bandiera dell'ISIS. Possiamo tornare su questi dettagli. Sì. Questi sono numerosissimi. Cioè, ma l'Europa come risponde? Cioè, l'Europa risponde in modo unito? Ma l'Europa risponde in modo unito? No, mi sembra di capire. Ma non tra Francia e Belgio, allora, tra tutti. No, non è quello. Io sono convintissimo che ci vuole un FBI europeo. Ci vuole una forza di azione di polizia federale, ma questo richiede anche una riforma non soltanto della polizia ma della giustizia. Fino a oggi le sovranità, ci vuole una procura congiunta antiterrorismo, hanno impedito queste cose. Ecco, allora però partiamo da questo, partiamo dal fatto che dopo 15 anni di guerra e di centinaia di europei inermi, civili, a parte chi è morto degli europei nelle guerre, cioè in divisa. Ma però dopo questo noi non abbiamo una procura congiunta, un vero servizio di intelligence militare e civile congiunto. Abbiamo le polizie che cooperano in maniera distaccata, però io vi invito a riflettere. Guardate che degli autori del Bataclan, che erano la rete logistica e di copertura di Salah Abdeslam, sapevamo i nomi e i cognomi, i loro parenti, le loro reti. Sono passati 4 mesi e mezzo e non abbiamo ancora acchiappati. Non stiamo parlando delle migliaia di supporto che dà l'acqua in cui nuotano i pesci di chi è o un foreign fighter tornato in Europa o di chi gli dà sostegno. Stiamo parlando di persone di cui dovremo conoscere tutto dopo 5 mesi, eppure hanno ricolpito. Allora lì vuol dire che non ci siamo, ragazzi. Io non voglio essere troppo... No, è chiaro. Per esempio, Tarabella, perché si chiedono i giornali anche italiani, l'allerta era 3, non massimo, dopo che le stesse autorità belghe dicevano e hanno detto ci aspettiamo e temiamo un attentato? Perché non è stato blindato anche l'aeroporto in tutti i modi? Ma hanno mantenuto il 3 perché abbiamo il 3, ha già fatto il quarto alcuni mesi fa, un po' prima di Natale, bloccato tutta la città, ma questo è quasi impossibile di fare in permanenza. E dunque la vita deve continuare, è il messaggio che dobbiamo dare, tentare di lottare più al massimo. Condivido la proposta di fare un intelligence service europeo, un servizio federale, un FBI europeo. Dobbiamo, ma inglesi non vogliono, altri non vogliono, è importante di scambiare le date e essere più efficaci su tutto il territorio europeo. Ma io, il Belgio, penso che le autorità hanno fatto quel che era il massimo possibile. Sì. Ma dobbiamo anche ammettere che un attentato fatto da ragazzi come questi, che sono fanatici, musulmani estremisti, come si può evitare? È impossibile. Allora chiudiamo tutti i negozi, chiudiamo le scuole, chiudiamo tutto. Lei dice tutto, bisogna avere a che fare con questo mondo in cui ogni tanto purtroppo qualcosa... Io ho un'altra impressione. Ma lottare di più anche sulle sorse, chi finanzia questo? Le faccio osservare una cosa. Quando ci fu la terrificante, durato un decennio in Algeria, no? Le stragi in Algeria per il GIA, 240.000 morti in Algeria, lì i servizi e le forze dell'intelligence, sia in Belgio che in Francia, per colpire duramente la rete degli algerini filogia che c'era sia in Francia che in Belgio, fu molto efficiente e dura. Perché? Perché lì c'era una questione politica che individuava all'interno della comunità musulmana oltretutto una filiera precisa, quella algerina. Questa volta, siccome intervenire a Mollet significava fare retate di massa, diciamoci le cose come stanno, per tentare di sbaraccare la rete di sostegno delle persone, dei parenti e degli amici di Salah Abdeslam, tutti noti, di fronte a questo, sia in Francia che in Belgio, si tira il freno a mano, perché si dice questo significherebbe far esplodere tutta la comunità musulmana. Io ho un po' l'impressione che ci sia questo, che capisco da una parte e dall'altra però mi interroga, perché in passato i vostri paesi, la Francia e il Belgio, sono stati molto efficienti nei confronti di pezzi del mondo musulmano che alimentavano per esempio la resistenza del Fronte Popolare Nazionale di Liberazione ai tempi delle guerre di liberazione nel 50 e 60 sul dominio coloniale. Jean-Pierre, posso dire una cosa? Sì. La sua analisi mi sembra non fondata su dati recenti, perché davvero dopo il 13 novembre c'è stato un indurimento del controllo poliziario dei mezzi impiegati, perlomeno in Francia, che è un paese che conosco un po'. Quindi dire che non ci sono state fatti inchieste, perquisizioni, tra l'altro i movimenti di tutela di diritti dell'uomo hanno denunciato tantissimi casi di perquisizioni. Quindi c'è stato un indurimento netto dell'apparato di sicurezza dal 13 novembre in poi in Francia. E quindi io non sono d'accordo sull'analisi che c'è stato, come dire, un momento un po' lasco delle forze di polizia in questo contesto. Non è vero. Non c'è un problema di timore della reazione delle comunità musulmane? No. Ok. Va bene, questa è l'analisi da Nice. Per concludere, perché noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità, intanto vi ringraziamo. Lei, Tarabella, le immagini di Federica Mogherini le hanno suscitato qualche tipo di reazione oppure, dice, umanamente... Le lacrime. Prima di essere una grande politica, perché Mogherini è molto efficace al suo posto, prima di tutto è una donna, con la tua, condivido il suo sentimento, è una donna con tutto... Direi i sentimenti, e prima di questo, prima di essere politici, siamo uomini e donne, e l'ha dimostrato in un modo particolare, e sono molto sensibile a questo. È molto umana. È umano, non c'è il rischio, qualcuno dice, di dare quell'immagine che i terroristi vogliono vedere, cioè di un'Europa in un suo grande rappresentante, come dire, in difficoltà. No, la sensibilità fa parte dell'uomo e della donna, e l'ha dimostrato, è come questo, vogliamo vedere i politici reagendo, hanno una reazione come tutti, sì, umani normali. Umano. Va bene, noi la ringraziamo e vi ringraziamo. Marc Tarabella, ricordiamo, eurodeputato socialista, eurodeputato del belga, e grazie per essere stato con noi, così come Jean-Pierre Darny, responsabile di ricerca all'Istituto Affari Internazionali. Grazie a te. Darny. Perché adesso l'altra domanda che si pongono tutti, ce la poniamo dopo la pubblicità, Oscar, è l'Italia. Ecco. È innegabile, uno guarda e dice accidenti, è in Italia. Però l'Italia fa un po' eccezione, perché tratta riservatamente la sua eccezione. Questa è la mia sensazione, magari mi sbaglio. Va bene, ne parleremo tra poco col sottosegretario agli interni. State con noi. Sono le 8:43 minuti, caro Oscar, siamo qui. Eccoci qua, cioè, poi tra l'altro oggi abbiamo anche dimenticato i santi. Ah, i santi, è vero, no. Vedi, tormenti degli umani colpiti dalla sofferenza, sì, non rivolgono lo sguardo verso l'alto, sto scherzando, però comunque, no, perché oggi i santi hanno nomi strani, tra l'altro oggi è una santa libanese. Oggi, in particolare. Comunque oggi, siccome è il giorno di una santa libanese, ci tenevo perché è una... cristiana libanese dell'Ottocento, che poi si dedica ai poveri, prende i voti, Santa Rebecca, non si chiamava Rebecca, il nome in realtà è un nome arabo, però diventa Suor Rebecca, quindi Santa Rebecca. E poi c'è Turibio, Domazio, Eparchio, Pelagia, Teodosia e Gualtiero, quindi direi poi tra l'altro oggi il compleanno di Franco Battiato, non vorrei dire, quindi ci tenevo perché è grande, dal punto di vista musicale per me maestro, le sue idee politiche sono un altro paio di maniche, ma che c'entra questo? Quindi... Senti caro Oscar, ci chiama Fabrizia e ci chiama da Bruxelles, ci ascolta da Bruxelles e quindi la vogliamo salutare. Fabrizia, buongiorno. Buongiorno Lino, buongiorno Oscar. Allora, come ci si sente all'indomani di quella tragedia? Oggi è il giorno in cui si realizza quello che è accaduto. Ieri era scattata una sorta di solidarietà meccanica, io lavoro vicino all'aeroporto e quindi avevo offerto il mio aiuto. Oggi invece ci rendiamo conto della tristezza di quanto è accaduto. Ieri ho accompagnato le colleghe che non sapevano come tornare a casa perché si recano in ufficio con i mezzi pubblici, ieri ne ho accompagnate un paio dall'altro lato della città e siamo rimaste ferme nel traffico che era congestionato. Il traffico di Bruxelles si articola su dei tunnel che ieri erano tutti chiusi, tra cui quello che giustamente passa sotto le istituzioni europee. Dalle 6:30 e io sono rientrata a casa alle 9:30. Oggi invece, stamattina, la situazione è l'opposto. C'è un silenzio quasi reale fuori. Ogni tanto si sente qualche sirena, ma quasi tutti noi in effetti oggi lavoriamo da casa. Io oggi lavoro da casa, tutte le aziende quindi hanno... è un po' irreale. Senti, io ti faccio una domanda. I fatti di ieri, se ti chiedessero, bene, allora bisogna assumere delle misure più efficaci. Per entrare nella ora della parte pubblica dell'aeroporto, comunque bisogna chiedere alla gente di identificarsi con un passaporto e un biglietto, e comunque bisogna fare un controllo di sicurezza anche per la parte pubblica, non solo per andare ai gates come si fa adesso. Tu diresti sì oppure no, è una limitazione inaccettabile alla libertà? Ma sinceramente ormai ci stiamo abituando così tanto a queste limitazioni che non mi cambierebbe la vita. Certo, è un'altra limitazione, non posso negarlo. Ma forse adesso ex post ne stiamo parlando. Però queste sono le lezioni imparate. Io direi, per esempio, sì, pesante, però bisogna farlo. Bisogna farlo. Se no, sì, ormai siamo noi consegniamo siamo tutte abituati. le... gli spazi pubblici delle stazioni e, delle, e degli aeroporti. Però appunto Oscar, lo fai l'aeroporto, c'è la stazione, lo fai la stazione, ci sarà un centro rendo commerciale conto, me ne fai... rendo conto, ma cioè, non è che sto dicendo una roba da niente, perché figurati, io sono un fan della libertà. Però o noi interveniamo sui possibili, sempre troppo facili, oggetti e obiettivi di attentato, oppure ci consegniamo alla Romania. Comunque Fabrizio, noi ti ringraziamo insomma anche per questa testimonianza molto molto sentita di quello che sta succedendo. Vogliamo salutare Domenico Manzione, che è sottosegretario all'interno. Buongiorno Domenico Manzione, benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Credo, la domanda successiva che tutti gli italiani e tutti quelli che sono in Italia si fanno è, dice, e che è in Italia che succede? Oggi un po' a me è inquietato leggere sul Corriere della Sera cellule anche in Italia, massima allerta per treni e stazioni. Per carità, è giusto che ci sia la massima allerta, però... Lei deve tranquillizzare gli italiani, ma deve anche dirci la verità, come stanno le cose. Ci sono rischi anche per il nostro paese? No, ma guardi, la verità risulta, diciamo così, evidente da tutti i rapporti che sono stati fino ad ora presentati, non solo dai nostri servizi di intelligence, ma anche dalle nostre forze di polizia. Nel senso che nessuno è ovviamente immune dal pericolo, anzi, noi come Italia abbiamo, come dire, una simbologia sia laica che religiosa piuttosto significativa, quindi molto appetibile per il Vaticano, per, giusto? Per esatto, tanto per dirne una, per le organizzazioni criminali e per le organizzazioni terroristiche. Tuttavia direi che fino ad ora un prudente atteggiamento politico ha giovato, così come hanno giovato tutte le misure che sono state messe in campo non solo dai servizi ma anche da tutte le nostre forze di polizia, e ha giovato molto, mi consenta di dirlo, perché su questo l'Europa credo che sia fortemente in ritardo, la circolazione delle notizie che noi siamo riusciti a ottenere attraverso il CASA, che è il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. Però sottosegretario, scusi, quando lei dice prudente atteggiamento politico, sia io che Oscar Giannini abbiamo detto ma come, cioè cosa vuol dire, che bisogna... Non bisogna comportarsi male, se uno si comporta bene, che poi ci traduce cosa vuol dire, siamo più esposti. No, ma glielo dico, guardi, glielo dico con un paio di esempi molto semplici. Quando si dice che tutto l'Islam è il nostro nemico e quindi dobbiamo cacciare fuori da tutta l'Europa tutti gli islamisti, a quella guerra a pezzettini di cui ha già parlato Papa Francesco e che purtroppo è sotto i nostri occhi anche dal punto di vista terroristico, è una guerra nella guerra per così dire, significa estendere il fronte in maniera parossistica, quindi farne una guerra anziché a pezzettini, una guerra globale. Scusi però, lei ha parlato di islamisti, non bisogna cacciare gli islamisti? Lei ha detto islamisti, non islamici? Stiamo attenti alle parole. Ah, vabbè. No, islamici. Okay. Quando appunto si eccita a queste contrapposizioni così frontali, evidentemente si sbaglia, quindi avere un atteggiamento prudente in questo senso, quando si dice che si può fare un intervento militare, si possono mettere i piedi in terra in Libia, probabilmente si sbaglia se non ci sono determinate condizioni. Quando, come ha fatto la Francia, si proclama una guerra che tra l'altro non si capisce in che cosa onestamente consista, probabilmente si tiene un atteggiamento politico non prudente. Quindi direi, da questo punto di vista, la prudenza è ben rappresentata da una serie di esempi. Ci sono i cosiddetti lupi solitari in Italia? Si fanno queste cifre, 90, i foreign fighters, cioè ci dica i numeri che si possono dire? Guardi Milano, io i numeri non glieli dico, però le posso dire che siamo al numero decisamente più basso a livello europeo rispetto al rapporto che è stato pubblicato dagli Stati Uniti, per esempio in Belgio, dove si parla di una novantina di foreign fighters. Da noi il numero è consistentemente più basso, però anche qui mi consenta di dire, l'Europa ancora una volta è in ritardo, cioè il Parlamento europeo ha ancora, per carità, ha fatto passi in avanti, però intanto che sto parlando del PNR, tanto per intenderci. Il controllo dei passeggeri, cioè lo scambio di dati sui passeggeri aerei. Esattamente, voglio dire, ne stiamo discutendo da mesi, ma questo è fondamentale, perché alcuni di quelli, dei foreign fighters che si trovano in questo momento in Belgio, è gente che è andata a addestrarsi in certi territori che ben conosciamo, quindi voglio dire, almeno da questo punto di vista, io le dico, è bene alzare il tiro e immaginare come si sta facendo in questo momento la creazione di un'intelligence di carattere europeo, forse però spero quantomeno che serva a mettere a fattor comune le informazioni, senza di questo passaggio credo che sia veramente difficile riuscire a contrastare il fenomeno. Mazzone, senta, io dico questo, nell'arco di questa trasmissione abbiamo sentito un europarlamentare belga che ha detto inaccettabile, noi funzioniamo in Belgio, la Francia non funziona, inaccettabile, no. Che troci, che aspetta, mi scusi, chi ascolta, sente questo, poi sente lei che dice no, noi funzioniamo, è l'Europa che non funziona, l'ascoltatore dice quello che rimane volete, però il problema è che qua gli attentati continuano ad arrivare. Cioè, se funzionate questo... tutti insieme è meglio, sì. Ecco. No, sono... no, ma guardi, ma io capisco perfettamente, l'ascoltatore ha pieno ragione per sentirsi disorientato, ma difatti le dico, non imposterei il ragionamento per dire se sono stati poco bravi i francesi, come pure si è detto dopo gli attentati di Parigi, o se sono stati pessimi i belgi oggi perché non sono riusciti, diciamo così, a prevenire una situazione che è abbastanza endemica da quella che si è capito, perché c'è stato un discreto salto, no? Rispetto, sì, alle, sì, cellule che si pensava iniziale, ora ci si incomincia a rendere conto che si tratta di cellule ma che hanno una rete di supporto piuttosto significativa, talora basate su rapporti di carattere familiare, ma ben significativa. Ah, senta, un'ultima domanda però, sottosegretario, sì, perché abbiamo, sì, da chiudere. Oggi il Sole, sì, dice che potrebbe essere questo per Schengen il colpo finale, cioè la chiusura della libera circolazione di persone e merci. Lei che pensa? C'è questo rischio? Ma guardi, se fosse questo non avrebbe veramente nessun senso. Io mi permetto di insistere, visto che le reti di protezione e i terroristi sono quelli della porta accanto, chiudersi dentro evidentemente non eliminerebbe affatto, non serve a niente. Molti non sono già dentro, dice, chiudiamo le porte, ma molti sono già dentro. Esattamente, esattamente. Quindi l'unica cosa veramente da fare è immaginare per davvero, al di là dei deficit delle singole intelligence, le intelligence in genere quando non succede niente diventano brave, diciamo così, quando succede qualcosa diventano immediatamente quelle che non hanno saputo prevenire, vabbè, ma questo però è un ragionamento, diciamo così, abbastanza banale, se vogliamo. Il vero punto è riuscire a mettere tutti insieme, cosa non facile, a collaborare. Sottosegretario, ci dobbiamo fermare, la ringraziamo. Domenico Manzione, sottosegretario all'interno. Caro Oscar, qua ci avviciniamo a questa Pasqua. Non so, mi convince poco a dire che noi siamo bravi, gli altri no. Chiunque lo dica, e a qualunque titolo, dopo 14 anni di guerra persa contro il terrorismo, c'è qualcosa di profondo che non funziona. Questa è la mia idea. Comunque, animo, cari ascoltatori. Esatto. Forza e coraggio. Domani, ciao.